Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Fratelli Omini, l'azienda delle demolizioni impossibili, di Andrea Ferro. Quella che raccontiamo oggi è la storia di un'azienda che all'inizio era una fonderia e che poi si è specializzata nelle demolizioni, diventando un punto di riferimento per il settore a livello nazionale ed internazionale. È la storia dell'azienda e della famiglia Omini. Questa trama di vita e di lavoro comincia nell'immediato dopoguerra, sbocciando nel cuore produttivo di Milano, in un tempo in cui la voglia di fare e di risollevarsi in fretta animava lo spirito imprenditoriale, come ci racconta Emilio Omini, attuale presidente e amministratore delegato della società. Nel 1946, io non ero ancora al mondo, sono nato dopo, e è stata fondata dai miei fratelli maggiori, i primi due. Noi siamo una famiglia di 6 fratelli maschi e 2 femmine, no? Io sono l'ultimo, e i due maggiori nel 46 hanno iniziato questa attività proprio no, quella mia l'ho iniziata io nell'85, quella di demolizioni, ma la società è nata nel 46 come fonderia d'alluminio. È nata alla Bovisa, proprio la classica zona industriale di Milano. Ecco, allora diciamo che Milano, la Bovisa, identificava proprio quello che era tutto l'identità produttiva pesante, fonderie, poi c'era Montedison, c'era un po' di tutto. Un po' come dopo si è spostato sul Bresciano, tutto questo indotto, però nel 1946, quando ho iniziato, proprio all'inizio, l'albore del dopoguerra, c'era questa iniziativa qua che andavano là dove c'era rottami, dove c'era metallo, dove c'erano fusioni, c'erano tutte queste nuove iniziative che praticamente allora bastava due capannoccine o due baracche, anche una persona iniziava l'attività. E così i miei fratelli hanno iniziato con questo proprio. I fratelli erano Omini Agostino e Omini Franco, i due maggiori proprio. E fra l'altro Omini Agostino, fra l'altro, è diventato poi un personaggio incredibile, che è diventato presidente della Federazione Italiana di Ciclismo e vicepresidente mondiale, e lo è tuttora. 4 di ottobre fa 94 anni ed è ancora vicepresidente mondiale onorario. Fin dall'inizio, la Fratelli Omini è un'azienda tipicamente familiare. Non appena i ragazzi crescono, vi entrano, ognuno con un ruolo, con un'esperienza da praticare e da maturare. Ed è così anche ai giorni nostri. Per i primi 35 anni, il marchio Omini è collegato alla fonderia. Poi, nella prima metà degli anni 80, arriva la svolta. Man mano che entravano nell'età di poter lavorare, che allora era 14 anni, no? Sì. E tutti, a pan mano, gli altri fratelli, anche la sorella, sono entrati a far parte di questa azienda, che era veramente familiare, perché siamo arrivati a un punto che lavoravamo in 7 praticamente di noi, quindi proprio ultra familiare come attività. E siamo andati avanti, diciamo, fino all'82-83 con questa attività. Poi sa che mio fratello maggiore, come l'ho già detto, è diventato presidente, quindi ormai è entrato anche in giunta CONI, no? Quindi aveva altri interessi. Sia il secondo purtroppo ha avuto dei problemi di salute, e io proprio personalmente non mi è mai attratto alla fonderia. Nell'84 chiudiamo quello che è la parte fonderia, poi andarono avanti dai nipoti per qualche anno, poi dopo misero anche loro. E noi, diciamo, io personalmente ho cominciato nell'84 con la Fratelli Omini a fare le prime demolizioni, 84-85. Dato che la fonderia comunque era in contatto con tutta questa gente che raccoglieva rottami e faceva demolizioni, no? Ed io, conoscendo questa gente qua, ero attratto veramente da questo lavoro qua. A me piaceva vedere questi lavori qua, perché la fonderia era un lavoro statico. Uno stava nel capannone, arrivava lì e fondeva la roba e tutto così. Poi era un lavoro che praticamente dipendeva troppo da terzi, no? Per conto terzi. Uno ordinava una fusione, l'altro la faceva. Mentre nelle demolizioni io con questi miei amici, con questa gente che frequentavo, la vedevo che era un bellissimo lavoro. Ogni demolizione è un capitolo a sé, ogni demolizione è un qualcosa di nuovo. E praticamente ho iniziato lavorando in subappalto per altre aziende, ho iniziato a fare delle piccole demolizioni. Dalle piccole demolizioni a quelle via via più grandi. Nel 1988 a Brindisi il primo grande lavoro per conto di un colosso del settore energetico, l'ENI. Quell'appalto segnerà la specializzazione dell'azienda, come ci racconta ancora Emilio Omini. Una parte del clorosoda di Brindisi e iniziai a lavorare proprio col gruppo Eni, che già prima lavoravo in subappalto, e poi quello fu il mio primo contratto proprio che presi giù a Brindisi per il gruppo Eni. Da lì, dall'88, sono arrivato fino al 96-97, sempre facendo piccoli lavori, andando avanti. Tutte le volte si andava a fare qualcosa in più, qualche impianto un po' più specifico. Fino a che sono arrivato, diciamo, negli anni 93, 94, 95, e lì mi sono un attimino più attrezzato e ho iniziato a fare delle grosse demolizioni. Memore forse della prima lavoro che ho fatto, noi siamo diventati praticamente un'azienda di riferimento per il chimico e il petrolchimico. Quindi i lavori grossi che ho fatto sono tutti lavori praticamente per il gruppo Eni, perché allora diciamo che per 5-6 anni ho lavorato quasi esclusivamente per il gruppo Eni, no? E quindi tutti gli impianti, clorosoda, il cracking, tutto quello che è chimico, sono stati fatti. Abbiamo fatto un grosso lavoro in Francia per la società, la PD Light, che è la società indiana, sempre sotto il cappello dell'Eni, perché era un vecchio lavoro, un vecchio impianto Eni che era la Champagner a Grenoble, che avevano venduto agli indiani, e abbiamo lavorato 3 anni facendo un grosso lavoro anche proprio di smontaggio più che di demolizione anche. Per la Fratelli Omini il nuovo millennio offre particolari opportunità di sviluppo, e non più solo nel ramo energetico. Il nome dell'azienda compare infatti in due operazioni legate a emergenze nazionali. La prima, per molti versi un lavoro unico al mondo, è la demolizione della Costa Concordia, la nave da crociera semiaffondata nel gennaio 2012 davanti all'isola del Giglio. Al di là delle tragedie purtroppo che si nascondono dietro questi progetti, però la Concordia anche quella è stata un'esperienza unica, un'esperienza che veramente mi ricordo che le prime volte che si saliva sulla Concordia avevamo tutti i brividi, ecco, a pensare a vedere. E poi dopo è stato un lavoro particolare. E lì ci siamo conosciuti anche con Fagioli e quelli che l'avevano radizzata la Concordia. Abbiamo fatto quel lavoro lì che è durato 1 anno e mezzo. Demolire a terra è una cosa, demolire sul mare, sull'acqua è tutta un'altra cosa. C'è da vedere tutti gli equilibri, tutte le stabilità. Cioè non è che uno può andare lì e demolire come si fanno negli impianti normali, no? Si comincia, si finisce quando lì così, insomma, tutti i giorni bisogna vedere se demolivi a poppa, dovevi vedere poi a prua per far sì che la nave comunque galleggiasse sempre. E quindi c'era questa particolarità. Poi dopo, per modo di dire, le demolizioni con l'ingegneria si studiano prima e poi tutte le demolizioni si prendono le giuste precauzioni. Nel 2018, per la Fratelli Omini, si prospetta una nuova impresa strettamente legata a un'altra tragica emergenza nazionale, il disastro del Ponte di Genova. Prima di avviare la ricostruzione, occorre demolire i due monconi del viadotto che incombono su un pezzo della città. Avverrà in parte meccanicamente con le gru, in parte con l'esplosivo. Bisogna fare in fretta e in sicurezza. Tutto inizia con una telefonata. Una telefonata del mio ingegnere che mi dice: guarda che dello studio di ingegneria mi fa, avrei un'idea per demolire il Ponte di Genova. E questa era la fine di agosto del 2018. Ma c'è stato il progetto, abbiamo chiamato Fagioli. Fagioli è la persona dell'ingegnere, quello che chiamano ingegnere delle imprese impossibili, Paolo Cremonini, che è quello che ha raddrizzato la Concordia proprio, no? Poi dopo siamo andati da Autostrade, Autostrade non ci ha preso in considerazione perché dicevano che l'avrebbero fatto in modo diverso, l'avrebbero fatto con le loro società. Poi invece dopo ci siamo presentati al commissario e il progetto è piaciuto subito. Devo dire che il progetto è stato un grande progetto, veramente. Da non dormire di notte, però, perché ogni sera che veniva giù qualcosa non sapevamo come veniva giù esattamente, però è stata una bellissima opera. Oggi la Fratelli Omini conta una sessantina di dipendenti con un fatturato di 20 milioni di euro e vanta un primato, al quale la famiglia tiene in modo particolare, come sottolinea Emilio Omini, presidente e amministratore delegato dell'azienda. Siamo stati premiati da tutte le società Eni, Enel in primo, che noi al gennaio del 2021 festeggiamo i 20 anni di infortuni zero con un lavoro ad alto rischio. Quando ci presentiamo, adesso stiamo facendo dei lavori, delle offerte all'estero, ci presentiamo con questo dato e quel dato che significa fa vedere esattamente come è gestita l'azienda. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.